Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. Mio suocero, come molta gente del suo stampo, aveva speculato sul crollo del franco francese. Era stata una speculazione sbagliata. Delle molte frecce al suo arco non gliene restò nemmeno una. Anche lo studio Yoland non redeva assolutamente nulla. Il mio sempre agilissimo suocero perse ogni interesse per le arti applicate. Improvvisamente si dedicò al giornalismo ed entrò a far parte del cosiddetto giornale del lunedì. Anche qui voleva tirarmi dentro. Dava consigli di borsa, come si dice, ne ricavava un guadagno. Della nostra casa ci restava, detratte le ipoteche, appena un terzo. E quando fu introdotta la nuova moneta, si scoprì che del deposito di mia madre alla banca Efrussi non erano rimasti che un paio di migliaia di scellini. Il primo a sparire dal nostro mondo fu il signor von Stettenheim. Alzò i tacchi, un'espressione che egli aveva usato così spesso e volentieri. Non scrisse nemmeno una lettera d'addio, telegrafò soltanto appuntamento urgente, ritorno presto, Stettenheim. La professoressa Yolande Sattmary fu quella che resse più di tutti. Da settimane ormai il famoso atelier coi mobili giallo limone era affittato alla Iraq SRL, che commerciava in tappeti persiani. Da settimane ormai mio suocero era in procinto di vendere la sua casa al comune di Vienna. Mezzo mondo era cambiato, ma la signora Yolande Sattmary restava dove era, all'Hotel Regina. Era decisa a non rinunciare a una sola delle sue abitudini, dei suoi usi e costumi. Continuava tuttora a fare i suoi schizzi. Il suo divorzio aveva avuto buon esito. Il marito le versava una quota mensile. Spesso parlava di andare a San Francisco. L'attiravano gli altri continenti. L'Europa, secondo lei, era spacciata. Però non se ne andava. Non cedeva. Qualche volta mi appariva in incubi notturni. Sì. In incubi notturni mi appariva come una specie di femmina diabolica destinata a distruggere la vita di Elizabeth e la mia. Perché restava ancora? A che scopo continuava a fare i suoi schizzi? Per quale motivo Elizabeth andava regolarmente da lei tutti i giorni? In albergo per ritirare degli inutili schizzi non più, mai più utilizzabili. «È come se fossi caduta in una buca», mi confessò un giorno Elizabeth. «Io ti amo», disse. «Quella donna non mi lascia libera. Non so che cosa abbia in mente». «Andiamo a parlare con mia madre», dissi. «Andammo a casa mia, nella nostra casa». Era già tardi, ma mia madre era ancora sveglia. «Mamma», dissi, «ho portato Elizabeth». «Bene», disse mia madre. «Non ha che da restare». Per la prima volta amai Elizabeth nella mia camera, sotto il nostro tetto. Fu come se la mia casa paterna esaltasse il nostro amore, come se lo benedicesse. Sempre conserverò il ricordo di quella notte, una vera notte di nozze, l'unica notte di nozze della mia vita. «Voglio un figlio tuo», disse Elizabeth, già mezzo addormentata. La considerai una normale espressione di tenerezza, ma la mattina, quando si svegliò, e si svegliò per prima, mi buttò le braccia al collo ed, entrando subito nel merito, con un tono sbrigativo che poteva quasi offendere, mi disse: «Io sono tua moglie. Voglio essere incinta di te. Voglio liberarmi di Yolande. Mi fa schifo. Voglio un bambino». Da quella mattina Elizabeth rimase a casa nostra. La professoressa Yolande Sattmary si fece ancora viva con una breve lettera di congedo. Non andò a San Francisco, come aveva minacciato, bensì a Budapest, che doveva essere la sua città. «Dove è andata a finire la professoressa Kecskemet?» chiedeva di tanto in tanto mia madre. «A Budapest, mamma». «Tornerà ancora», profetizzava mia madre. Era destino che mia madre avesse ragione. Ora abitavamo tutti nella stessa casa e andava abbastanza bene. Mia madre mi fece perfino la cortesia di astenersi dalle sue malignità. Non parlava più dell'ebreo, ma del dottor Kinhover, come sempre in passato. Questi sosteneva ostinatamente la sua idea. Dovevamo aprire una pensione. Era uno di quegli uomini cosiddetti pratici che sono incapaci di rinunciare a un'idea cosiddetta fertile quando anche le persone siano inadatte a realizzarla. Era un realista, ossia di un'ostinazione non minore di quella che si usava attribuire solo ai visionari. Non vedeva nient'altro che i vantaggi di un progetto e viveva nella convinzione che tutti gli uomini, non importa di quale indole, fossero allo stesso modo in grado di realizzare progetti vantaggiosi. Era come se un sarto, per esempio, avesse fabbricato della mobilia senza tener conto delle dimensioni delle case, delle porte, delle stanze. Così noi aprimmo una pensione. Con lo zelo di un esaltato che vuole ottenere il brevetto di una delle sue invenzioni, il dottor Kinhover si prodigò per farci avere la licenza che ci serviva. «Lei ha tanti amici», mi disse. «In tutto ha 12 stanze da affittare. Alla sua signora mamma ne restano 2. A lei e a sua moglie 4. Non ha che da procurarsi una cameriera, un telefono, 8 letti e dei campanelli». E prima ancora che potessimo rifiatare, portò cameriera, telefono, installatori, letti a nolo. Bisognava anche trovare dei pigionanti. Czojnicki, Steiskal, Halas, Gründenberger, Wojak, Szczęsny, Hallensberg, Lichtenthal, Strohofer, erano tutti diventati, per così dire, dei senza tetto. Li portai nella nostra pensione. L'unico che pagò la pigione fin dall'inizio fu il barone Hallensberg. Figlio di un grosso fabbricante di zucchero della Moravia, egli coltivava il lusso, assolutamente estraneo alla nostra cerchia, della meticolosità. Non chiedeva prestiti, né dava nulla in prestito. Impeccabilmente spazzolato, stirato, lisciato, viveva in mezzo a noi, intimo con noi, tollerato da noi per la sua mitezza, per le sue maniere discrete e la sua assoluta mancanza di spirito. «La nostra fabbrica sta attraversando ora un brutto periodo», diceva per esempio, e subito dopo cominciava a calcolare con carta e penna alla mano le preoccupazioni di suo padre. Si aspettava che anche noi facessimo una faccia preoccupata e noi gli rendevamo il servigio. «Devo limitarmi nelle spese», diceva allora di solito. E così era. Nella nostra pensione egli si limitava nelle spese. Pagava prontamente e tutto in anticipo. Aveva paura dei debiti, dei conti. «Si ammucchiano», amava dire. E di noi tutti aveva scarsa stima, perché permettavamo che si ammucchiassero. Però ci invidiava nello stesso tempo questa capacità di lasciarli ammucchiare. Meglio di tutti noi ci riusciva Czojnicki. E lui era infatti quello che Hallensberg invidiava di più. Con mia grande sorpresa, mia madre era entusiasta di questa nostra pensione. Evidentemente la rallegrava vedere le nostre stanze brulicare di installatori vestiti di blu, sentire campanelli che trillavano e voci squillanti, allegre. Evidentemente le pareva di iniziare una nuova vita, di ricominciare, per così dire, tutto da capo. A passi vivaci, arzilla sul bastone, attraversava le stanze, saliva e scendeva i 3 piani della nostra casa. La sua voce era gaia e squillante. Non l'avevo mai vista così. La sera si addormentava qualche volta nella sua poltrona a braccioli. Il bastone giaceva ai suoi piedi come un cane fedele. Ma la pensione marciava, come diceva Kinhover. Thank you. Dormivo dunque nella nostra casa a fianco di mia moglie. Ben presto si scoprì che essa possedeva, come si dice, spiccate attitudini domestiche. Era addirittura ossessionata, come molte donne, dalla smania dell'ordine e della pulizia. A questa fatale vocazione si accompagnava anche la gelosia. Allora seppi per la prima volta perché le donne amano case e stanze più dei loro mariti. Per prima cosa, le donne preparano il nido per la discendenza. Con inconscia malizia avviluppano l'uomo in una rete inestricabile di piccoli doveri quotidiani ai quali egli non sfuggirà più. Dormivo dunque nella nostra casa a fianco di mia moglie. Era la mia casa. Era mia moglie. Sì, il letto diventa una casa segreta dentro la casa in vista, la casa palese. E la donna che lì ci aspetta la si ama semplicemente perché è lì, disponibile. È lì e disponibile a ogni ora della notte, in qualunque momento si torni a casa. Di conseguenza la si ama. Si ama ciò che è sicuro. Si ama in specie ciò che aspetta, ciò che pazienta. Ora avevamo in casa nostra 10 apparecchi telefonici e una dozzina circa di campanelli. Una mezza dozzina di uomini in camiciotto blu lavoravano alle nostre condutture dell'acqua. Per tutte le installazioni e per il riattamento della nostra casa, i soldi li anticipava il dottor Chignover. Per mia madre, da un pezzo non era più l'ebreo e basta. Era stato promosso a brav'uomo. In autunno ricevemmo una visita inaspettata. Era mio cugino Josef Branco. Capitò di mattina, esattamente come la prima volta. E come se nel frattempo non fosse successo assolutamente nulla, come se non avessimo superato una guerra mondiale, come se non fosse stato prigioniero insieme con Manes Rising e con me, poi da Baranovic e in seguito al campo, come se il nostro paese non fosse andato in sfacelo. Così arrivò mio cugino, il caldarostaio, con le sue castagne, il suo mulo, nero di capelli e di baffi, bruno in viso eppure splendente, dorato come un sole. Josef Branco era arrivato qui, come ogni anno, e come se non fosse successo nulla, per vendere le sue caldarroste. Suo figlio era vispo e sano, andava a scuola a Dubrovnik. La sorella era felicemente sposata, il cognato, stranamente, non era morto in guerra. Avevano due figli, due maschi, gemelli, e tutti e due, per semplicità, si chiamavano Branco. Chiesi che cosa ne era di Manes Reisiger. «Ecco, vedi, non è facile», rispose mio cugino Josef Branco. «Aspetta da basso. Non è voluto salire su con me». Scesi di corsa a chiamarlo. Non lo riconobbi subito. Aveva una barba canuta, incolta. Sembrava l'inverno, così come viene raffigurato in primitivi libri di fiabe. Gli chiesi perché non era salito subito. «È un anno ormai», rispose, «che volevo farle visita, signor tenente. Sono stato in Polonia, a Zlotogrod. Volevo tornare a essere il vetturino Manes Reisiger. Ma che cos'è il mondo? Che cosa è una cittadina, un uomo e un vetturino, poi, di fronte a Dio? Dio ha sconvolto il mondo. La cittadina di Zlotogrod l'ha annientata. Croco e pratoline crescono là dove un tempo erano le nostre case. E anche mia moglie è morta ormai. Una granata l'ha dilaniata, come anche altri abitanti di Zlotogrod. Così sono ritornato a Vienna. Qui almeno c'è mio figlio Efraim». «Sì, certo. Suo figlio Efraim. Mi ricordavo benissimo del ragazzo prodigio e di come Choinitsky l'aveva introdotto al conservatorio. Che cosa fa ora?» chiesi a Manes il vetturino. «Il mio Efraim è un genio», rispose il vecchio vetturino. Non suona più. Non gli serve, dice. È comunista. Redattore della Rotfane. Scrive degli splendidi articoli. Eccoli qui. Andammo nella mia camera. Il vetturino Mannes-Reisiger aveva in tasca tutti gli articoli del suo geniale figliolo, un fascicolo considerevole. Pretese che glieli leggessi. Li lessi, uno dopo l'altro, a voce alta. Elisabeth uscì dalla camera. Più tardi si radunarono da me, come sempre ogni pomeriggio, anche i nostri pensionanti, i miei amici. «Veramente non posso restare a Vienna», disse Mannes-Reisiger. «Mi è stato proibito il soggiorno qui». La sua barba spiegò le ali. Il suo viso era raggiante. «Mio figlio Efraim mi ha procurato un passaporto falso. Eccolo qui». E mostrò il suo passaporto austriaco falso. Si passò la mano sulla barba e disse «Illegale!» guardandosi fiero intorno. «Mio figlio Efraim», riprese a dire, «non ha più bisogno di suonare. Sarà ministro quando verrà la rivoluzione». Era così convinto che la rivoluzione mondiale sarebbe venuta come del fatto che ogni settimana nel calendario c'è stampata in rosso una domenica. «Quest'anno le castagne hanno fatto cattiva riuscita», disse mio cugino Josef Branco. «Molte sono anche baccate. Ora vendo più le mele al forno che le caldarroste». «Ma come avete fatto a cavarvela?» chiesi. «Con l'aiuto di Dio», rispose il vetturino Mannes-Reisiger. «Abbiamo avuto la fortuna di ammazzare un caporale russo. Josef Branco gli ha fatto lo sgambetto e gli ha sbattuto una pietra sulla testa. Poi io mi misi la sua uniforme, presi il suo fucile e portai Josef Branco fino a Smerinka. E lì c'era l'esercito di occupazione. Branco si presentò subito. Lui ha dovuto anche combattere. Io sono rimasto in borghese a casa di un bravo ebreo. Branco ha avuto l'indirizzo e, come è finita la guerra, è venuto da me». «Che meraviglia di esercito!» esclamò Choinitsky, che era entrato in quel momento nella camera per bere, come ogni giorno, il caffè insieme con me. «E che ne è di suo figlio Efraim, il musicista?» «La musica non gli serve più», rispose Mannes-Reisiger, il vetturino. «Fa la rivoluzione». «Già, non è il primo», disse Choinitsky. «Per carità, non creda che io abbia qualcosa in contrario, ma le rivoluzioni di oggi hanno un difetto. Non riescono. Suo figlio Efraim forse avrebbe fatto meglio a restarsene con la musica». «Ora c'è bisogno di un visto speciale per ogni paese», disse mio cugino Josef Branco. «In vita mia non ho mai veduto niente di simile. Ogni anno ho sempre potuto vendere dappertutto, in Boemia, in Moravia, in Slesia, in Galizia», ed enumerò tutti i vecchi perduti paesi della corona. «E ora tutto è proibito. E dire che ho un passaporto, con la fotografia. tirò fuori dalla tasca della giacca il suo passaporto e, tenendolo alto, lo mostrò in giro. «Questo è solo un caldarostaio», disse Czojnicki, «ma vedete? È addirittura un mestiere simbolico, simbolico per la vecchia monarchia. Questo signore ha venduto le sue castagne ovunque, in metà dell'Europa, si può dire. Dappertutto, ovunque si mangiassero le sue caldarroste, era Austria. Governava Francesco Giuseppe. Ora niente più caldarroste senza visto. Che razza di mondo! Me ne infischio della vostra pensione. Io vado a Steinhof da mio fratello». Arrivava mia madre. Si sentivano già i colpi secchi del suo bastone sulla scala. Riteneva opportuno fare la sua comparsa nella nostra camera ogni giorno alle 5 in punto. Finora nemmeno uno dei nostri pensionanti aveva pagato qualcosa. Una volta Czojnicki, un'altra volta Szczesny, avevano fatto un timido tentativo di chiedere il conto. Mia madre, per tutta risposta, aveva detto che i conti li faceva il portiere. Ma non era esatto. In verità, il compito era di Elisabeth. Riceveva denaro da questo e da quello come capitava e provvedeva alle nostre spese come capitava. I campanelli squillavano tutto il santo giorno. Ormai avevamo 2 cameriere. Correvano su e giù per i 3 piani come scoiattoli. Ovunque, nel quartiere, godevamo di credito. Mia madre si rallegrava dei campanelli che riusciva ancora a sentire, del rumore che facevano i nostri ospiti e del credito che la sua casa godeva. Non sapeva la povera vecchia signora che ormai era tutt'altro che casa sua. Credeva ancora che fosse sua perché nella nostra camera si faceva silenzio quando lei scendeva coi suoi capelli bianchi e il suo bastone nero. Quel giorno riconobbe Josef Branko e salutò anche Manes Reisiger. Da che avevamo aperto la pensione si era fatta per lo più affabile. Avrebbe dato il benvenuto anche a degli sconosciuti. Il guaio era che diventava sempre più sorda e che questa infermità sembrava farle perdere lentamente il ben dell'intelletto, e non già perché l'infermità l'affliggesse, bensì perché si comportava come se non le procurasse alcun disagio, perché la rinnegava. Thank you.